Música máquina. Música máquina. Gente matta, siamo tutti gente matta che si pita, si infarina, si imbelletta, si paglietta, si imparrucca, si infagotta, biroetta, canta, recita, sgambetta, gente matta, che potrà sembrare matta ma che matta non è. Basta solo dire in piedi di scena che pare sia la pena di vivere così. Gente matta, matta, matta, ma sì, gente matta. Ma sì, che me chiedo. Gente matta, che si stessa rabatta, che traghetta, dalla breca all'operetta, che sculetta, tanto sto alla gavotta. Sfatta di un panino il nome in ditta. Gente matta, che potrà sembrare matta ma che matta non è. Matta, pazza, matta, pazza. Io, tu, noi, noi. Il sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Matta. Musica macchina. Musica macchina è iniziata per voi, tutti pronti, dai, ballate con noi. Musica macchina, un bel viaggio sarà, dai, cominciamo, vedrai le novità. Sembra strano, molto strano, ma stai tranquillo, dai. Musica macchina, è divertente, vedrai. Cava macchina, ogni sabato sera. Musica macchina, il sabato alle 21, su Radio Onda Rossa, Ileho. Musica macchina. Dal 2001 un viaggio iniziò, musica macchina, un'onda che va, prima su Città Aperta, poi su Onda Rossa, suoni psichedelici che ti danno la scossa. Le onde si scontrano, i beat si fondono, la notte si accende, i sensi si confondono, un universo di suoni, un viaggio senza fine, musica macchina, l'elettronica di confine. Un universo di suoni, un viaggio senza fine, musica macchina, l'elettronica di confine. Dal 2001 fino a oggi, musica macchina non si ferma mai. Su Radio Onda Rossa ci trovi sempre qui, in un sogno elettronico per volare in alto, sì. Musica macchina, spazio novità, la nuova musica elettronica. Eccola qua, con la dotta vela, nello spazio cosmico vi porterà. Musica macchina, spazio novità, anche questa settimana fatela scappare, anche in streaming la potrai ascoltare. La si un fel de tu fama nota a pi pur som lo pa pa tona da fa o pi pur som lo pa pa tu e ma da fa a si un fel de tu fama nota a pi pur som lo pa pa tona da fa pa pi pur ma pa tu e ma da fa o pi pur som lo pa Trasmettiamo a colori spettacoli nazionali ed esteri, musica, giochi, ricchi premi e cotillon. Saluto a tutte e a tutti, questo è lo spazio novità di Musica Macchina in voce con voi Amptech. Ho aperto questa sezione della trasmissione con un estratto dal lavoro Counterpoints, targato 2025, di Lisa Belladonna, una produttrice statunitense che si è distinta come dimostratrice della più importante e nota casa produttrice di sintetizzatori analogici della storia, ovvero la Moog Music. Ma andiamo avanti con un'altra produttrice, questa volta italiana, vincitrice del contest 2025 dell'etichetta tedesca Raster Media. Si tratta di Camilla Pisani e di Camilla Pisani stiamo già ascoltando Serotonin Tribe. Thank you. questa è sempre Musica Macchina, spazio novità. Vi ricordo il nostro sito di riferimento per trovare materiali collaterali a ciò che vi trasmettiamo: www.musicamachina.com. Abbiamo ascoltato un brano di Camilla Pisani, che è fra le vincitrici del contest 2025 della Raster Media, una delle etichette tedesche di musica sperimentale elettronica più influenti degli ultimi anni. Ma andiamo avanti con un remix di brani elettronici storici. Si tratta di una compilation dedicata a una delle sperimentatrici e artiste più importanti della storia della musica elettronica. Si tratta di Daphne Oram, che insieme a Delia Derbyshire nel corso degli anni 60 ha animato il famoso BBC Radio Workshop, cioè il laboratorio nel quale la BBC ha sperimentato rumoristica, effettistica, sigle fatte con strumenti elettronici concreti destinati a radiodrammi e a trasmissioni radiotelevisive britanniche, uno degli istituti pubblici della BBC che ha contribuito nel corso degli anni 60 a diffondere le sonorità elettroniche presso il grande pubblico. E questa compilation, Variations Ode to Oram, vede la presenza di numerosi artisti, tra cui Cosey Fannitutti, una esponente fondamentale della storia della musica industriale, faceva parte dei Throbbing Gristle, come ricordo, ma noi ci ascoltiamo la versione che Arushi Jain ha realizzato di Electronic Music is Loud. Thank you. questa è sempre Musica Macchina, spazio novità. Abbiamo ascoltato un estratto dal lavoro di remix dedicato a Daphne Oram, chiamato Variations Ode to Oram, una delle sperimentatrici storiche dell'elettronica britannica più importanti insieme a Delia Derbyshire. Ma andiamo avanti, rimanendo in Gran Bretagna. Lui è Daniel Lopatin, uno degli artisti più interessanti e innovativi degli ultimi anni, e il suo pseudonimo è One Trick Point Never. Nuovo album su Warp Records che si chiama Tranquilizer. Saluto caro a Musica Macchina su Radio Onda Rossa, da Valeria Brea. Baci. One Trick Point Never, qui a Musica Macchina, spazio novità, nuovo lavoro su Warp Records, un disco decisamente più ambientale e omogeneo dei precedenti, in cui Daniel Lopatin si muoveva tra diversi ambienti sonori. Restiamo nello stesso perimetro. Shipscat, ovvero un artista di stanza a Manchester di soli 26 anni che si chiama Josh Griffiths, e appunto si fa chiamare Shipscat. Questo extended play ha preceduto di qualche settimana l'uscita dell'album, si intitola Fertile Edits for the Shadow of Spring. Shipscat. Don't what fool are you know about me? Just smoke a sample, please. Don't fool like you know about me. You and I and B, I was outside with a Rambo 16 into the smoke case, stand for please. Sad, I don't wanna ride out. Sad, so come to the hideout. There's nothing to lie about. Tap, you don't wanna find out. I'm charging, and eat sandy, that's gladly. Let me pop on more. I can hear everyone talking, they ain't on walking. Why do they speak on the wall? I told her come to the hood, and so she was shook, so she doesn't hang anymore. Everyone wanna be plugged in, so I got plugged in soon as I came through the door. For the last round of the boom room. Send this pack and we put it on boom room. I know you're shocked, shit, like I can call you boss. For the little living, it's a smack for trying to talk it to you. Now I will tell you what I've done for you. 50,000 tears I've cried, screaming to see you. You still won't hear me. Musica macchina ogni sabato. macchina il sabato alle 21 su Radio Onda Rossa. Gli leggo musica macchina. La la, che macchina, ma che musica, oui oui, c'est moi. Oh mamma mia fantastica, già la sento nel mio cuore, voilà. La musica, la macchina, la musica, oui oui oui, l'appuntamento è qui. La sento sulla Senna, mi compro anche una penna, l'ascolto il giorno mentre mangio le scargò. Musica, macchina, oui, oui. Musica, macchina, eccola qui. Ullala la macchina, eccola qua, ande toi. Musica, macchina, che bello è già qua. Su musica macchina c'è. Su ferro. Si viaggia senza mai partire. Si sogna senza mai dormire. Ciucci, come si chiama? Ciuffi. Ciuffi, ciuffi. Ciuffi room. Musica macchina. Musica macchina. We'll be right back.

Firuj. Thank you. 2, 3, 4. Musica macchina, musica, musica macchina. Musica macchina. Gente matta, siamo tutti gente matta che si pitta, si infarina, si imbelletta, si paglietta, si imparrucca, si infagotta, biroetta, canta, recita, sgambetta. Gente matta, che potrà sembrare matta, ma che matta non è. Il sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica macchina. Di H500L e tutte le cose brutte diventano belle. Questo è il suono dei pensieri, dovresti provare qualche volta. Signore e signori, bon voyage, have a nice trip, bon viaggio. La danza della mente, trattamenti fonetici, H501L, la danza della mente, mi raccomando. Musica macchina, la danza della mente, H501L e sono con voi tutti sabato sera. Saluto caro a Musica Macchina su Radio Onda Rossa, da Valerio Brera. Baci. saluto per Musica Macchina da Magica Rotonda per Radio Onda Rossa. Musica Macchina. Ciao, sono Rapone, un saluto a Musica Macchina e Radio Onda Rossa. Musica Macchina. È fondamentale. Facile come bere un bicchiere d'acqua. Mica tanto. Ser música máquina. Se può spiegare, come vai a spiegarlo? Mon coupon qui dit Diaga, 5 Zento, une OL. Musica Macchina, tutti i sabati, dalle 21 alle 23, su Radio Onda Rossa 87.9. We'll be right back. Questo è il suono dei pensieri, dovresti provare qualche volta. Avversione, pericolo, repressione. Patria, famiglia, progresso senza avventure, ordine, legalità, democrazia, distruzione, guerra, annientamento, concentrazione, factum, zerstörung, escalation, napalming, controguerriglia, pugno di ferro, stato d'assedio, colpo di stato.

metodo per musica e macchina qui su Radio Onda Rossa. Torniamo con la nostra analisi e selezioni riguardanti la Daft Records, questa etichetta fondata da Dirk Evans all'inizio degli anni 90. Torniamo con due progetti, diciamo, più sotterranei di questa etichetta, esattamente gli Stigma e Hybrids. Per quanto riguarda gli Stigma, un trio belga fondato da Laurent Kistler e Antonio Licinio da Costa, ci andremo ad ascoltare la traccia di apertura che poi dà il titolo all'intero album, dal nome Putrefaction Test, un album che uscì in due versioni. E noi naturalmente abbiamo la versione della Daft Records, uscito nel 1995, una lunga traccia con un inizio decisamente dark ambient che poi va a salire per trasformarsi in una situazione emotiva di tribalismo ultra glaciale. Eccola qua dunque, Putrefaction Test. vita è più facile con Musica Macchina. L'anno successivo, siamo nel 1996, uscì invece Cortex Stimulation del collettivo Hybrids, un collettivo che attualmente è ancora esistente e che gira intorno alla figura di Peter De Koenig e Sabra Nyss, e nel quale ha anche militato in passato Herman Claffels, tutore di Akamasos. Cortex Stimulation è uno dei pochi dischi dove c'è una forte componente elettronico-industriale. Una componente elettronico-industriale assai ruvida e ispida che si può apprezzare proprio nella title track Cortex Stimulation. Eccolo qua dunque, Hybrids. The virtual reality is not just a simulation. It's a whole other world, a new electric dimension. Virtual reality is not just a simulation. It's a whole other world, a new electric dimension. Virtual reality is not just a simulation. It's a whole other world, a new electric dimension. Virtual reality is not just a simulation. It's a whole other world, a new electric dimension. Virtual reality is not just a simulation. It's a whole other world, a new electric dimension. We'll be right back. La macchina. Tutte fandonie. e scoprirai che puoi farla tutte le volte che vuoi. Thank you. mistrust authority, promote decentralization. Un saluto a Musica Macchina. E anche oggi abbiamo cantato Musica Macchina. E anche oggi abbiamo cantato, e anche oggi abbiamo suonato, ma nessuno ci ha pagato. Musica Macchina. Ma nessuno ci ha pagato. Ma nessuno ci ha pagato. Ma nessuno. Ti dico, nessuno ci ha pagato. Musica Macchina, ogni sabato sera, dalle 9 alle 11, sempre con te per momenti unici. Musica Macchina, su Onda Rossa cercala, e se la perdi non ti preoccupare, c'è sempre il podcast da scaricare. Musica Macchina. Mille grazie, tausendmal Dankeschön. Mille grazie, es war wunderschön. Wir wollen mit einem Lächeln auseinander gehen. Mille grazie, auf Wiedersehen. Tutti i sabati, dalle 21 alle 23, su Radio Onda Rossa. Musica Macchina. Radio Onda Rossa.